Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera ricordiamo e onoriamo la Francia con uno dei suoi autori più amati, uno dei protagonisti del Novecento, cioè Marcel Proust, e lo facciamo con due libri, uno su Proust e uno di Proust. Il primo è un libro insolito che ci dimostra come la cultura, la letteratura, i libri possono essere di conforto nei momenti peggiori della storia, per esempio gli anni del Gulag. Tra il 1940 e il 1941 a Ryazovec, che è a nord di Mosca, un gruppo di ufficiali polacchi, in origine erano 4.000, sono rinchiusi appunto in un gulag e trovano un modo straordinario per non perdere la ragione e resistere all'annientamento: fare a vicenda delle lezioni su vari temi. E uno di questi ufficiali, Józef Czapański, parla appunto di Proust. Lo fa senza libri, forte della sua memoria, della sua storia di esperto di pittura e di letteratura francese. E tra parentesi, di questi soldati ufficiali polacchi, i soldati erano più di 15.000 e ne rientrarono in patria quasi 400 soltanto. Queste lezioni di Czapański, che era di Praga, morto nel 1993 in Francia e che scampò quasi per miracolo all'eccidio dalle fosse di Katyn, vengono raccolte nel libro Proust a Ryazovec, 126 pagine, 18 euro, pubblicato da Adelphi, che è curato da Giuseppe Girimonti Greco. Come dicevo, l'autore non ebbe nessun libro a disposizione per appoggiare le proprie lezioni e quindi l'autore definisce il libro non propriamente un saggio letterario, ma piuttosto una raccolta di ricordi su un'opera alla quale dovevo molto e che non ero sicuro di poter rivedere un giorno. E lo definisce anche il suo saggio un umile tributo di riconoscenza nei confronti dell'arte francese che ci ha aiutato a sopravvivere in quegli anni passati in Unione Sovietica. Proust viene presentato qua in forma semplice, divulgativa. Czapański vuole smontare l'immagine di uno scrittore snob, ne fa anzi il ritrattista di un mondo descritto attraverso la sua opera, non solo La ricerca del tempo perduto, ma anche certi suoi famosi studi, per esempio quelli su Ruskin, cioè il grande critico d'arte inglese. E i saggi di Proust adesso sono raccolti tutti insieme nel libro appunto intitolato Saggi di Marcel Proust, pubblicato dal Saggiatore, 974 pagine, 75 euro, che è curato da Mariolina Bongiovanni Bertini e da Marco Piazza. Qui troviamo la raccolta degli scritti che ebbero una influenza determinante spesso sulla cultura e la critica letteraria dell'epoca di Proust e anche di quella successiva, per esempio gli scritti su Ruskin, gli scritti su Sainte-Beuve, che era un grande letterato francese dell'Ottocento criticato da Proust per l'eccesso di erudizione, come nota Marco Piazza nelle sue righe. E questi saggi sono usciti postumi nel 1954. Ma sentiamo dall'altra curatrice, Mariolina Bongiovanni Bertini, il significato e il valore di queste pagine. Buonasera Mariolina Bongiovanni Bertini. Buonasera. Mariolina Bongiovanni Bertini, che cosa ci fanno scoprire questi saggi di Proust che avete curato assieme a Marco Piazza? Dunque, si tratta dell'insieme di tutti gli scritti saggistici di Proust, dai tempi della scuola fino a dopo la Prima Guerra Mondiale. Dunque sono saggi che coprono l'arco intero della vita di Proust. E sono pagine nelle quali si segue la nascita dei suoi grandi interessi, della sua passione per la pittura, del suo interesse per Ruskin e per l'arte del Medioevo, e anche l'evoluzione della sua poetica, le sue idee sulla scrittura, sullo stile, dai primi abbozzi, a volte inediti, della prima giovinezza fino alla maturità, agli anni in cui scrive Alla ricerca del tempo perduto. Fermiamoci su questo punto. Lei scrive che questi saggi rappresentano una sorta di cerniera tra due fasi nelle quali fino adesso era considerata tradizionalmente divisa la vita di Proust, quella giovanile, della mondanità, e quella della maturità e della letteratura. Ecco, questi saggi in che senso rappresentano questa cerniera fra questi due momenti della vita di Proust? L'insieme di questi saggi smentisce un poco questa visione bipartita della vita di Proust, perché un tempo si pensava, quando la vita di Proust era meno conosciuta, che lui da giovane, prima più o meno del 1910, non avesse scritto nulla. Invece questi saggi, come per esempio il suo romanzo giovanile Jean Saint-Louis, che è stato pubblicato soltanto negli anni 50, ci dimostrano che Proust ha sempre scritto molto, ma c'è un momento particolarmente critico nella sua vita che è molto ben documentato dalle pagine di questo volume, ed è il momento, il 1909, cioè il momento in cui Proust decide di scrivere un saggio in cui critica e attacca un critico allora celeberrimo, morto qualche anno prima, che era Sainte-Beuve. E dunque nel 1909 Proust scrive queste pagine contro Sainte-Beuve, cercando di spiegare che gli scrittori non vanno giudicati sulla loro vita pubblica, sull'importanza che hanno nella società del loro tempo, ma attraverso lo stile, attraverso le scelte del linguaggio, dello stile che emergono soltanto dalle loro opere. Dunque le pagine di questo saggio contro Sainte-Beuve sono molto importanti, perché è scrivendole che Proust scopre la propria estetica, la propria concezione della letteratura, e a poco dalle pagine del saggio passa a scrivere un romanzo senza interruzione, nel senso che in mezzo alle pagine saggistiche cominciano a comparire dei brani narrativi, dei brani in cui ci sono i personaggi che popoleranno la Recherche. Nella sua introduzione lei scrive che vi sono nel pensiero proustiano temi ricorrenti, quasi ossessivi. Quali sono questi, principalmente questi temi ossessivi di Proust? Innanzitutto lo stile, appunto, il fatto che la letteratura e l'arte in generale va avvicinata attraverso la comprensione dello stile, non attraverso i contenuti ideologici. C'è una sorta di costante polemica di Proust contro quegli scrittori come Romain Rolland, che ritenevano che l'importanza di un'opera letteraria sia data dai suoi contenuti ideologici, dal fatto di battersi per delle buone cause, di prendere posizione su grandi problemi sociali e politici. E dunque Proust invece in questo è sulla linea di Flaubert piuttosto, e ritiene che l'autenticità, la sincerità di uno scrittore la si veda dalle sue scelte stilistiche soprattutto e dai risultati che raggiunge sullo stile. Questo è uno degli elementi che attraversano tutti questi saggi. Poi c'è il suo interesse per la pittura, in cui analizza l'opera di pittori come Chardin, Monet, Gustave Moreau, viene fuori molto bene questa sua passione per la pittura, poi la passione per il pensiero di Ruskin nell'arte gotica, ci sono pagine molto belle sulla cattedrale di Amiens, e poi anche un grande interesse per la letteratura contemporanea, per gli altri scrittori francesi su cui si pronuncia, su cui formula dei giudizi, delle riflessioni. A un certo punto troviamo una curiosa citazione di Proust nella quale lo scrittore fa un curioso parallelo tra il poeta ispirato e il dottor Jekyll. Che cosa c'hanno in comune queste due figure? Sì, sono doppie, cioè il dottor Jekyll ogni tanto si trasforma in Mr. Hyde, e quando è il cattivo Mr. Hyde non ricorda quasi più com'era quando era il dottor Jekyll. Ora lo scrittore, secondo Proust, è ugualmente una figura doppia, anche l'artista in generale è una figura doppia, ha una personalità sociale. Questa personalità sociale desidera arrivare, mettersi in mostra, avere onori accademici, eccetera. E poi ha un'altra personalità, la personalità profonda, quella che Proust chiama l'io profondo, che invece crea la sua opera e tende a sacrificare tutto alla sua opera, e quindi magari rinuncia a cose che gli procurerebbero un facile successo per realizzare la sua opera in modo perfetto, secondo il suo ideale. Grazie a Mariolina Bongiovanni Bertini, curatrice con Marco Piazza dei saggi di Marcel Proust. Buona serata. Prego, buonasera. Di John Ruskin, l'autore tanto amato da Proust, sono usciti Gli elementi del disegno, pubblicati sempre da Delphi, 272 pagine, 12 euro, tradotto da Maria Grazia Bellone. Questo è un manuale di disegno scritto per i suoi allievi nel 1856 e ispirati al modello e al metodo leonardesco. Un tema proustiano abbastanza insolito è quello trattato da Valentina Vestroni nel libro I fiori della Recherche, pubblicato dalle Lettere, 118 pagine, 14,50 euro. L'autrice è una esperta di letteratura francese, che affronta qui un tema importante per Proust, quello della presenza dei fiori e delle piante nel suo grande romanzo, e il tema del significato che questo richiamo aveva per meglio costruire e definire, secondo Proust, il ricordo di cui, dice l'autrice, ogni episodio circoscritto nello spazio-tempo diventa una tessera del mosaico del tempo perduto e ritrovato. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi secondi. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato di Proust, affrontiamo un altro grande mito letterario, cioè Don Chisciotte, che ritroviamo in questi versi. Sulla città, silenzi improvvisi. Varchi con un sorriso indefinibile ai confini. Sai le spine di tutte le siepi. E vai, oltre i fiati caldi degli uomini, il sonno dopo gli amori, l'affanno e la prigionia. Sulla petraia che è azzurra come le corolle del lino, liberata canti correndo. Ma chiudi gli occhi, se in fondo al cielo le ali bianche dei mulini si dilacerano al vento. I versi sono di Antonia Pozzi, la grande poetessa milanese vissuta tra il 1912 e il 1938, di cui vengono pubblicate tutte le poesie con il titolo Parole, e il libro è curato da Graziella Bernabò e Onorina Dino, è pubblicato da Ancora, 464 pagine, 27 euro. Pozzi fu una meteora di genio, apparteneva a una famiglia agiata, poté viaggiare, cominciò a scrivere poesie nel 1929, si dedicò alla fotografia dove produsse delle immagini di grande qualità, e all'università sarebbe entrata nel gruppo degli allievi del grande filosofo Antonio Banfi, che le instillò anche qualche dubbio sulla sua vocazione poetica. E assieme ad altri allievi di Banfi, la Pozzi condusse anche un'intensa attività sociale a Milano, progettò un romanzo, cominciò poi a insegnare finché crollò per il crollo del mondo intorno a lei, che si dimostrò capace delle leggi razziali che le fanno scoprire il volto autentico del fascismo. Come ricorda Graziella Bernabò, Antonia Pozzi è stata del tutto ignorata in vita, invece oggetto negli ultimi decenni di una crescente e ormai clamorosa riscoperta in Italia e nel mondo, soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, una ricerca che ha fatto scoprire degli aspetti della Pozzi che la fanno apparire come un'esperienza autonoma e per certi aspetti unica. Donne scrittrici troviamo nell'antologia curata da Guido Davico Bonino, che ha considerato le scrittrici tra gli inizi dell'Ottocento e il primo Novecento. Si intitola Donne allo specchio, i più bei racconti della letteratura italiana al femminile, pubblicato da Rizzoli, 812 pagine, 16,50 euro. Il libro è diviso in due parti, di cui la seconda con racconti e novelle dedicate a fanciulle e bambine. Invece nella prima troviamo brani per adulti, non sono dei brani di romanzi, ma sono appunto dei racconti, quindi completi, e delle autrici più note di quel periodo, come Matilde Serao, Ada Negri, Grazia Deledda, Nera, la Contessa Lara, Carolina Invernizzi e tante altre. E appunto si tratta di racconti che ci consentono dunque di immergerci nella capacità spesso prodigiosa di molte di queste figure di creare trame e narrazioni. Un'altra antologia, questa poetica, è quella pubblicata da una nuova casa editrice romana, Enoteca Letteraria, che ha pubblicato, a cura di Angelo Zito, autore e regista teatrale, E non sarà peccato amarci, amore, 190 pagine, 6,90 euro. Qui troviamo dei brani di Catullo e di Orazio, ma soprattutto, e qui è la sorpresa, di Sulpicia, che è considerata l'unica poetessa latina vissuta nel primo secolo avanti Cristo, i cui versi erano noti ma erano stati fino adesso interpolati e presentati all'interno dell'opera di Tibullo. Qui Sulpicia assume una sua autonomia, una sua indipendenza, e anche se molti discutono ancora della effettiva paternità o maternità di questi versi, ma il curatore spiega qui che questi dubbi sono frutto piuttosto di un certo pregiudizio, secondo il quale la poesia a Roma non fosse cosa da donna. E qui nel libro troviamo i testi in latino dei tre poeti tradotti da Zito, e ve ne propongo alcuni versi tratti dalla prima epistola, nella quale Sulpicia dichiara il suo amore per il giovane Cerinto. Ed eccoti infine, amore, soltanto per pudore t'ho nascosto, e assai più me ne vanto che averti raccontato a destra e a manca. Tra le mie braccia aperte t'ha lasciato Venere, innamorata dei miei versi. È stata di parola, e la mia gioia, anche chi non la prova, può narrarla. Non voglio lasciare pagine nascoste. Solo tu leggerai le mie parole, e non sarà peccato amarci, amore. Di noi diranno degni l'un dell'altro. Un'altra poetessa, questa contemporanea, è Alda Cicognani, pedagogista, scrittrice, poetessa, che ha scritto Le fonti dell'amore, poema mistico, pubblicato dalla Vita Felice, 44 pagine, 10 euro. Perché mistico? Ce lo spiega la stessa poetessa, perché dice: nell'intensità della poesia non si tace il dubbio, non si china il capo di fronte al bisogno di chiedere risposte, mentre in alcune parti sale la melodia dell'amore e della fiducia nell'armonia di un disegno che solo a Dio è noto, che solo Dio potrà rivelare se e quando il figlio lo avrà guadagnato e meritato. Non sappiamo, aggiunge la poetessa, quanto Dio soffre in questo momento, in cui tutta l'umanità pare gemere e oltre il limite delle doglie di un parto, come scriveva San Paolo, ma quello che mi ha dettato il mio spirito è che egli soffra, che ci sia compagno, che non ci perde di vista e che aspetta qualcosa da noi. Un'altra carrellata di donne, queste del Novecento, troviamo nella raccolta di Lucrezia Dell'Arti, che è una giornalista che ha curato per anni su un settimanale femminile una rubrica dedicata a donne importanti, che vengono presentate in paragrafi di poche righe, che riescono tuttavia a cogliere i tratti essenziali della donna che di volta in volta viene presentata. Per esempio di Coco Chanel vengono descritte alcune forme ossessive, che vengono descritte nell'articolo sotto la voce miseria. Era così spaventata, Coco Chanel, scrive l'autrice, dalla miseria che quando iniziò la seconda guerra mondiale tolse la pensione ai fratelli, lasciò la sua casa per trasferirsi in albergo, mandò a casa camerieri, maggiordome e 4.000 dipendenti. Nonostante fosse ricchissima, suo fratello Lucien prese a inviarle denaro per aiutarla. Oppure troviamo un'immagine di Agatha Christie che definiva i suoi libri la mia fabbrica di salsicce, o ancora di Mata Hari, la famosa spia, che era dotata, secondo il Times, di un'avvenenza che sconfina nell'incredibile, con una figura dal fascino strano e delle movenze di una belva divina che si conduca in una foresta incantata. E a questo punto il confettino. A proposito di ragazze famose, vi propongo una nuova versione di Cappuccetto Rosso, che è scritta da Laura Simeone con le illustrazioni di Luna Colombini, pubblicata da Orecchio Acerbo, 13 euro. Questa è una versione, per così dire, politicamente corretta, nella quale il lupo è un animale domestico che si convertirà a una dieta più leggera di quella alla quale era abituata. La versione tradizionale di Cappuccetto Rosso è quella raccontata da Roberto Piumini con le illustrazioni di Elena Temporin per M Edizioni, 14,90 euro. Ultimi arrivi. Vi segnalo tre titoli al femminile che ci introducono tutti a dei temi molto attuali. Il primo è una ripresa di un libro famoso, di una scrittrice famosissima, Oriana Fallaci. Il titolo del libro è Le radici dell'odio, la mia verità sull'Islam, con la prefazione di Lucia Annunziata, 478 pagine, 20 euro, pubblicato da Rizzoli. Sono impressionanti in questo libro le righe che la Fallaci scrisse su quelli che ella chiamava i moscardini, la sinistra francese à la page, che secondo la Fallaci chiuse gli occhi dinanzi all'emergere del fenomeno del terrorismo nel proprio paese, e che per non apparire islamofobi, scrive l'autrice, rinunciano al laicismo, al progresso, alla civiltà. E sappiamo bene perché, aggiunge la Fallaci, perché gli forniscono l'elettorato perduto a quel tipo di sinistra da che le masse proletarie li hanno respinti, li hanno rifiutati. Ma guai a identificare i moscardini con la Francia, guai. Poi vi segnalo un libro di Tiziana Maiolo, 1992, La notte del garantismo, pubblicato da Marsilio, 190 pagine, 15 euro. Il 92 naturalmente è l'anno di Mani pulite e anche l'anno, secondo la scrittrice, nella quale morì lo Stato di diritto. In quell'anno la Maiolo entrava alla Camera dei Deputati con Rifondazione Comunista, poi sarebbe passata con Forza Italia in una linea che è rimasta sempre limpidamente garantista e di cui troviamo appunto la testimonianza in questo libro. Infine vi presento un'altra donna, ma dell'Ottocento, Alessandra Ravizza, morta nel 1915, che è una delle madri del Milano sociale. Il libro si intitola Alessandra Ravizza, la signora dei disperati, è curato da Giuliana Nuvoli e Claudio Colombo, pubblicato da Raccolto Edizioni, 320 pagine, 15 euro, e ricorda la figura di questa donna scomparsa 100 anni fa, che diventò una delle donne più famose di Milano per il lavoro straordinario che fece nel suo Milano, nel solco della cultura riformista, per assistere i più sfortunati, per esempio i disoccupati, per i quali creò la casa di lavoro per operai disoccupati. E questo ritratto della Ravizza ci fornisce anche un'immagine di quella Milano che cominciò allora a costruire un welfare originale ed efficace. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.